questo muro vuoto di un rosso caldo che non va via. Marchio questo luogo per dipingerti bianca come quando entrasti. Yes.